del voce, voce, y del voce, se vayan oram tenorum, tenatil, pumini niradum, canal barum, adal dagum bode, votum jade, gatu voce, y del voce, voce, y del voce. Say.